E poi abbiamo Rocchina Ceglia all'ufficio stampa, Massimo Sugoni come disegno luci, Giampaolo Amico il tecnico audio e luci, Luigi Imparato che ci ha fatto la grafica. E, sono le persone che hanno comunque lavorato a tutto lo spettacolo. E, niente, la pagina specifica, beh, poi ci sono comunque altri riferimenti in giro, insomma, ecco. Comunque, se questo è. Un'altra curiosità, questo titolo? Questo titolo è perché in realtà questa città venne chiamata il Dono di Idre in riferimento al discorso del documentario che viene realizzato da Kurt Gerlon, che era un attore che ha partecipato anche all'Angelo Azzurro con Marlene Dietrich, che ha fatto la regia di questo documentario e che è stato divulgato per la Croce Rossa e quindi venne chiamato il Dono di Idre perché era in pratica la città il simbolo che Idre avrebbe dato agli ebrei. Ovviamente era tutta una cosa allestita per l'occasione, però prese il nome da qua. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Il dono di Hitler, Terezin 1941-1945, il 26 e il 27 di gennaio all'Arma Teatro, testo e regia di Daria Veronese. Daria, un saluto e a risentirci presto. Grazie, grazie.